Attenzione, mi ricevete sul canale? Tocca. Senti. Ehi. Avanti. Chi è là? Su Bobui. Ciao Giammari. Attore. Hai sentito queste ragazzine? Quale ragazzine, Giovanni? Stanno parlando, stanno. Io non le sento. Deve essere vicino a me, È tutta la sera, Ma come più merda? Sì. Poi metto anche l'avviso, come si chiama? Anche un avviso, mettono anche 5-6 volte. Io non l'ho sentito. E sono un paio di ragazzine che stanno sempre parlando fra di loro. Ormai questa cosa è peggio malattia, cazzo. Ormai ce l'hanno tutti quanti questo PMR. Non puoi averlo tu solo, no? Ormai è diventato cazzo una malattia questa cosa, di questo apparato. È la banda cittadina, che è libera, per cui entrano tutti. Vabbè, me lo usi. Lasciali fare, se lo fanno peggio. Ma c'era anche bello, sentiva bello, poco fa. Deve essere ancora dormito o è mangiato, non sta mangiando ancora. Ma chi? Graziano? Io so sempre mangiare cioccolatini, panettone, lo spumante, Per quello che le sale la glicemia alta, cazzo, a forza di questa cosa. Dove tieni Giuseppe? Già le sento, adesso già. Cazzo, adesso qua, ma tutta la sera, Ciao ragazzine piccole, infatti. Evidentemente sono vicini perché, cazzo, arriva quasi a fondo scala. Se non sono qua, dalla... avvicina, come si chiama, alla chiesa, non lo so dire. Ciucu, non hai sentito? No, non ho sentito, Antonello, sarà in coma anche lui. Addirittura in coma, a chi intorniera le notti? Alle mani era con l'amico suo, è stato a Palma a prendersi. E con chi è andato? Con Mario Chigini. Capito. Fa bene questa. Ogni tanto bisogna evadere, no? Bisogna evadere, sì. Poi non lo so che fine ha fatto. Allora va ancora gufato sul ragghende. E Grugabu vede gli uccelli, vedi? Non lo so. Si va carregata di tutti. Ognuno fa di la moda suo. Via po', fai attento, e tu chi sei? Non mi rispondi? Fai la brava, almeno questo canale dovresti essere ben pulito. Hai sentito Giuseppe? Ho già sentito, via, per carità. Lasciale fare Giovanni, lasciale fare, sennò va di ripeggio. Non dico almeno questo, lasciarlo pulito, invece anche qua ci sono quelli che sporcano. Non lo sai che è fatto così. Il codice delle radioamatori o CB, se non sporcano il canale non sono contento. Per carità. Pazienza, basta non risponderli e basta lasciarli cantare. Punta come faccio io, dai. E sentiamo dopo, Giuseppe. Sì, vabbè, dai. Ciao, ciao, io. Ciao, Harry. Ehi, Luna. Ehi. Oh. Ehi. Sei cabala. Ehi. Ricetti. Non mi tossi. Ah? Non mi tossi, Giovanni. Allora, ho visto solo. Davvero. Giovanni. Amicetti! Chi sei? Amicetti! Ehi là! E non ci sento adesso! Hello! Hello! Mio! Hello! Giovanni! Ehi gatti! Oh! Cos'è? Il canale di Vimucci? Non ci gioco. E ringrazio. Amicetti. Non ci gioco. E te, gufo. Non ci gioco. E vuoi per miscela, gufo. Non ci gioco. Attenta, gufa. Non ci gioco. Cicca, cicca. Aspetta, Peppa! Là! Comita, sei gufa! Aspetta, Peppa! Peppa! E mangiando i lupi! Ehi, te bala! Aspetta, Mattaloro! Sì, sì, sì, sì! Mattaloro! Io butto il fili! Adesso, io Maria! Aspetta, Mattaloro! Comita, sei Giovanni! E là! Come si fa, Giovanni? Ciao, io sono quello! Aspetta, mi meglio adesso! Roba, benissimi, Luca! Senta, gufo! Peppa, mi ha scattato il pesce! Ma niente rubi! Ma niente rubi sei! Ha detto che si vuole avviare un tabuli! Amicetti! Aspetta, gufa! E sei stupendi, rubano il lupo! Mamma mia, le attacchi epiletti ci mi sono venendo. Ah, perché non vai a giocare con la palla invece di giocare col portatile? Grazie! Basta, ma questa ragazzina li senti? Tutta la gira, non ha risposto. Sì, infatti, ho tutta la sera, tutta la sera. Ehi, vabbè, lasciamole fare, là. E vuol dire il padre? Mazzola stavo anche ruttando, eh. Ho fatto un paio di rutti poco fa, boh. Non ti ha digerito male. Tu vieni stasera, vabbè, lasciamo giocare anche loro, là. Magari non si ha rubato di tronca, lui se lo sarei. Tutta la sera, eh. Vabbè. Vai, vai, pigia in questa roba, vai. Da voi accendo il mio la 27, vai. Ma va l'attacco. Che gufo. Accenditi la 26. Ah, sono il 28, sono. Io metto il 29 adesso. Tanti no, che sono sempre un pennello in capo. 28. Ehi, stanno giocando le ragazze, capito? Stanno giocando fra di loro. Ehi, laga di Yuga. Aspetta 5-10 minuti che sto mettendo a posto questa roba. Ehi, ragazzi, piatto di notte. E la roba è Maria. Ehi, acqua di chi tra i sacchi di ghiello. Luca. Ehi, io. Ma è flippano gusto per andare a finire. Boh, si libia, Dormito. Ah, dormito, Atta. Il torneo è ieri notte. Ehi, io. Bella, bella, fa bene, fa bene. Beh, Luca Guffo, Guffo Luca, vabbè. Ma li senti grazie a questi? Si stanno giocando tutta la sera, magari lo va per dormito. Ma Robavo bisogna appaccare lo gabbo per accompararli, allucinante. Non fa manco ad ascoltare qua, non fa manco ad ascoltare perché tutta la sera con questo bip mi sono spacchendo che sei metto. Già l'ho sentito, ci deve essere acceso questo qua su, nel muro. Marco ci risponde, se gli dai corda fanno peggio. Non gli risponde, li lascio cantare. Quando si stufano già se ne vanno. Per carità, guarda. Vabbè, va. No, io ce l'ho sempre accesa, vi ascolto. Ma non fa manco ascoltare, già un paio di volte ho abbassato il volume a chi me ne mangia niente del bidu. Ehi, ragazzi qua, quando si tratta di assinandare, va? Vabbè, che mi sto mettendo a posto questa spesa che ho fatto. A più tardi, Claudio, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao anche a Luca, a Gio Maria, a tutti, ciao, ciao. Ciao. Ma dove sono? Nella zona tua sono? No, qua arrivano molto frusciati. Ah, qua arrivano forte, maledizione, forse perché io ho l'antenna grande, sempre attaccata, ma arrivano forte, non fa manco ad ascoltarvi. Sì, vabbè, sei di vostra malattia, se vi va più lucido. Quando sei così abbasso il volume non li sento più. Sì, vabbè, ma io sono qua a ascoltare a voi, così due chiacchiere, ma non fa manco ad ascoltare perché mi bigliavo nervoso. Allucinante. Rubabbo verrà comparato, bisogna faccare il rugabbo. Vabbè, va. Ciao a tutti, divertitevi, ciao, ciao. Ciao, Cla. Gesù, aggiramento di balle, va, per carità. Sto dicendo, lui, mi vedo nervoso, allucinante. Attento l'amico. E lui? Tenni i bicchiornai, non intendi? Eia. Sì, vabbè. Cosa vuoi fare? Purtroppo. È fatta quella roba là. E cosa? La cassettina lui? No, la, quella che mi ha mandato prima. Ti sto mandando le foto adesso. Non ho capito. Aspetta che alzo lo squatch, così spariscono, aspetta. Ma devo essere qua vicino. Sì, sono più grande di essere anche pizzini. Ah, ma così rimane tu? Effetto legno. Ah, ecco. Trasparente. No, dopo si dà il lucido opaco. Quello è quando l'avevo appena complicato e si vede quel lucido. Voi vedi quando l'ho asciugato e sciacquato con me. E poi si dà il fondo per proteggerlo. Adesso qui è finito così, no? Esatto, effetto legno. Siccome molti lo vogliono come era in origine, capito? Allora c'è anche quella tipologia di pellicola. Ah, io compreso. Oh, lui. Antenne più un'aia. Sì, non lo so. Eh? Non intendi? E io? Sta giocando a minuta. Sta giocando nella PlayStation, hanno comprato questi giocattoli. E allora, abbiamo già fatto. E lui? Vabbè. E io? E chi? E lui? Ci vuole caricare la batteria, allora. Prima o poi. Ma la batteria non si scarica mai. Tornassi il lumaro. E lui? Bello, sì, bello, bello. Solo che, vabbè, una volta che è così, si fa quello che gli ha detto. Cioè, rimane così comunque sia, non ne vuole disegni. Oh, questo è così, lui. A molti non piacciono i disegni dei rami, queste cose così, e lo vogliono con l'effetto naturale, capito? E siccome c'è anche l'effetto legno, si fa l'effetto legno. Ah, ho capito. È bello comunque, è bel colore. Secondo me è il massimo così. con il suo colore originale, dai, diciamo. Bello. Infatti. Ma molti riescono a prendere la piega di avere rami, foglie e queste cose, capito? Ah, anche gli altri sono molto belli i disegni, però non è a tutti, c'è quello che lo vuole solamente effetto normale, come era all'epoca, perché quando sono molto bucati, graffiati profondamente, capito? E non conviene scavare il legno, eccetera, eccetera, allora lì, perché a levigarlo lo consumi troppo il legno, quando c'è troppi graffi, lo sai come vengono usati, no? Cadono per terra, morita secca, eccetera, eccetera. Allora si stucca, si dà il fondo e si cubica. Ma conviene infatti stuccarlo, se lo butti giù levigandolo è un casino. Ma quando ci sono troppi buchi non fa ristrutturarlo, perché lo consumi troppo il legno, capito? Allora si fa direttamente così, si stucca, si dà il fondo e si cubica così. Adesso vedo un po' l'altra parte di fare un'altra cosa, perché lo devo portare alle armerie, capito? Va bene comunque, perché cioè, poi ognuno lo vuole a piacimento, no? C'è cioè, quello che lo vuole con le foglie, quello mimetizzato, quello così, quello colà. No, così secondo me è l'originale, come l'hai fatto adesso, è perfetto. È molto bello così, sì. C'è anche più scuro, più chiaro, tipo pieno di svezia. Adesso ho messo pubblicato su Facebook anche il video. Mandatelo il video. Sì, l'ho visto. Ho messo lo squarciato al massimo. Solo tu passi adesso. Se c'è qualcuno che sta parlando non lo sento. Effi! Ehi, you! Beh, ti piace, grazie. E cosa? Guarda il telefono. Che è bello, ma è il colore naturale. Il colore suo è questo. E il mio è quel colore, Emi, tutti e due. C'ha le venature lo stesso. Vabbè, ti piace? I miei sono così, tutti e due. Ma questo mica è originale, ho fatto io così. Ah, e il mio, quelli miei sono simili a quel colore lì. Guardati la foto di quando era prima di fare. Domani ha messo bella giornata, campagna, arrostite. Tutto rossicato, guida. Vedo il padrone, si ritratta le cuscì, è tutto scalfito, tutto rotto. Ma quando mai una cosa si tiene così? Ma stiamo scherzando, il mio non c'ha manco un graffio. Topo, mi senti, sì, ti sentiamo. Pronto. Come stai? Tutto bene? Non sta uscendo, non mi sento. Negativo. Allo.